Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Cominciamo dall'Economist, che ha una copertina con le mani di due uomini unite. Il titolo è The Gay Divide, che ovviamente è un po' un gioco di parole, non Gay Pride ma Gay Divide, e è la storia principale, con poi molti approfondimenti all'interno, qual è effettivamente la situazione dei diritti dei gay in giro per il mondo. Le situazioni più gravi sono naturalmente quelle dei paesi dove addirittura essere gay, e sono 5 i paesi in cui questo succede, essere gay vuol dire rischiare la pena di morte. Per esempio in Iran i gay vengono impiccati, e in Arabia Saudita vengono lapidati. E poi c'è tutto un excursus su un po' di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Non ci sono aggiornamenti sulla vicenda italiana, anche perché probabilmente risulta difficile spiegare l'ennesimo cavillo per il quale il nostro ministro degli interni Alfano ha ripreso i sindaci che registrano le unioni gay avvenute all'estero, poi alcuni sindaci come il sindaco Pisapia, insomma sapete, una vicenda tipicamente italiana fatta appunto di mosse legali che sono molto difficili da spiegare a chi non è familiare con le cose del nostro paese. C'è naturalmente anche un excursus su quello che in generale succede in Europa, dove naturalmente i diritti dei gay sono un pochino più tutelati che in altri paesi, ma la situazione non è comunque ancora risolta, anche se naturalmente negli ultimi 20 anni sono cambiate molte cose. All'interno dell'Economist c'è poi, richiamato in copertina, un aggiornamento sulla situazione italiana, tant'è che l'articolo è intitolato Renzi Revisited, quindi è un'espressione che si usa spesso, può essere detta di qualsiasi cosa, anche di una ricetta di cucina piuttosto che appunto di un personaggio politico, quindi vi aggiorniamo su quello che sta succedendo in Italia. L'Economist ha parlato anche con il Premier, che ha dichiarato: nei prossimi 6 mesi vogliamo concludere tutto e allora potremo cominciare a parlare con franchezza in Europa. Naturalmente si parla del Jobs Act, che sapete è stato approvato nella notte tra mercoledì e giovedì, e che però adesso poi ha tante altre deadline, come ricorda l'Economist. In generale comunque l'Economist torna a lodare il coraggio di Renzi, che sta un po' sfidando tutte le resistenze al cambiamento che ci sono nel nostro paese. A proposito di resistenze, sappiamo che è un po' la parola d'ordine della Germania, della sua cancelliera Angela Merkel: resistere alle pressioni per allentare il patto di stabilità. E allora vediamo per esempio che il Guardian e Financial Times, due quotidiani britannici, si occupano della situazione in Germania, perché come sapete la Germania resta sicuramente la principale economia europea, il primo paese manifatturiero, e però comincia anche la Germania a non crescere più ai ritmi di prima. Addirittura qualcuno pensa che potrebbe esserci una deflazione anche in Germania, e soprattutto addirittura la Germania potrebbe non crescere più, quindi entrare in recessione a sua volta. E allora questi due articoli, quello del Guardian che si intitola Nella morsa dell'austerità e quello del Financial Times Crollano le vendite dell'industria tedesca, entrambi li trovate su Internazionale di questa settimana, che peraltro dedica la copertina a quello che sta succedendo in Libia. Vi leggo le prime righe di questi due articoli. Il Guardian scrive: l'Europa ha un problema, la Germania. La crisi dell'euro è cominciata nella periferia, in Grecia, Irlanda e Portogallo, poi si è spostata nei paesi più grandi dell'Europa del Sud, Spagna e Italia, e infine è arrivata alla seconda economia dell'Eurozona, la Francia. Per tutto il tempo è sembrato che la Germania fosse immune a questi problemi. Le esportazioni delle sue fabbriche erano in pieno boom, la fiducia alta, la crescita solida. Ma questi tempi sono passati. E invece Financial Times, che ricorda alcuni dati economici significativi: ad agosto gli ordini ricevuti dalle fabbriche tedesche sono diminuiti del 5,7% rispetto al mese precedente, il calo più consistente dal gennaio 2009. Il ministro tedesco dell'economia Sigmar Gabriel ha cercato di ridimensionare il dato, spiegando che è stato influenzato dalle vacanze scolastiche. Per questo anche la Morgan Stanley ha avvertito i suoi clienti di non trarre conclusioni eccessive da un solo rapporto. Eppure il dato di agosto è stato peggiore del calo del 2,5% previsto dagli esperti, perché sapete che c'è sempre in economia, soprattutto insomma con questi dati macroeconomici, ma anche con i dati per esempio delle aziende quotate, si fa sempre il confronto tra il dato effettivo e quello che avevano previsto gli analisti, e se c'è una discrepanza, aiuto, e qui c'è stata. Passiamo a un argomento un po' diverso, è il Paese, perché sapete che noi abbiamo adesso una nuova Commissione europea, però ci sono anche le audizioni al Parlamento, perché nel complicato meccanismo di equilibrio delle istituzioni europee, la Commissione, una volta scelta e una volta eletto il suo cosiddetto primo ministro, cioè che nel nostro caso naturalmente Jean-Claude Juncker, deve andare poi a presentarsi al Parlamento europeo per ricevere un voto che non è tecnicamente non l'annulla né la approva per sempre, però è comunque un voto consultivo che però naturalmente ha il suo peso. E allora titola Il País, audizione al Parlamento, la Commissione Juncker sotto torchio. I commissari designati, così ancora dobbiamo chiamarli, stanno passando in questi giorni le audizioni davanti al Parlamento. L'Assemblea ha già scelto il Presidente della Commissione, ma può liquidare i commissari che non sono di suo gradimento, una contraddizione che grava sul rapporto tra le due istituzioni. E infatti vi segnalo un articolo che ho trovato invece sul sito che mi piace tanto, che è www.presseurope.eu, perché mi chiedono una volta, alcuni ascoltatori mi chiedono esattamente l'indirizzo. È questo sito che è come noi cerca di fare un po' il radar della stampa europea, e il vantaggio di questo sito è che veramente traduce anche articoli di giornali, di settimanali, di paesi di cui pochissime persone conoscono la lingua. Per esempio in questo caso un articolo del quotidiano Delo della Slovenia, che parla proprio di Alenka Bratušek, che era stata designata come vicepresidente della Commissione europea incaricata dell'energia ed è stata bocciata con un'ampia maggioranza, 118 voti contro, 13 a favore e 2 astenuti, dal Parlamento europeo. È finita sulla prima pagina del quotidiano Delo della Slovenia, perché non è appunto così usuale che il Parlamento eserciti questo, che è un diritto, quello di bocciare i candidati. Alenka Bratušek, scrive Delo, è quindi l'unica candidata della squadra di Jean-Claude Juncker a essere stata bocciata. Il quotidiano sloveno spiega che se la sua audizione è stata deludente, Bratušek paga anche il prezzo dei mercanteggiamenti, così scrive, tra la destra e i socialisti europei. Il premier sloveno Miro Cerar ha dichiarato che la Slovenia proporrà una nuova candidata entro un paio di giorni. Quindi questo per quanto riguarda appunto le audizioni. Poi c'è un altro nuovo personaggio nel panorama delle istituzioni non strettamente europee, ma che coinvolgono l'Europa, e parlo della NATO. Infatti Le Figaro dedica un articolo all'ex premier laburista norvegese Jens Stoltenberg, che ha assunto le funzioni di segretario generale della NATO il 2 ottobre e ha imposto una sua rotta fin dall'inizio. Sapete che la questione principale sul tavolo della NATO, come abbiamo visto anche nelle settimane scorse, è quella dei rapporti con la Russia. In questo momento l'Ucraina ha chiesto di entrare per esempio nella NATO, la Russia naturalmente vede questa cosa come sicuramente non come positiva, e allora secondo Le Figaro Stoltenberg ha offerto al Cremlino una prospettiva di una relazione costruttiva con l'Occidente senza cambiare però le premesse, cioè la Russia deve mostrare in modo netto che ha intenzione di rispettare il diritto internazionale in Ucraina, e nel frattempo la NATO rafforzerà il suo dispositivo in Europa orientale. Secondo Le Figaro non c'è contraddizione tra una NATO forte e l'esigenza di costruire una relazione costruttiva con Mosca. Stoltenberg vuole in particolare organizzare un consiglio tra la NATO e la Russia, e sicuramente è una buona notizia quella che si cerchi comunque sempre il dialogo. Vi segnalo ancora due articoli che riguardano la Germania, perché insomma sapete anche quante volte Renzi è stato accusato anche durante l'iter del Jobs Act di voler fare delle cose da poter poi sventolare sotto il naso di Angela Merkel e della Germania. E quindi la FAZ segnala che Juncker, a proposito di Commissione Europea, ha già fatto marcia indietro sull'idea di usare i fondi della BEI per sostenere la crescita, probabilmente per l'opposizione della Germania, e poi però anche altri dati sul lavoro in Germania, perché i principali istituti di ricerca economica, cioè l'IFO, il DIV, l'RVI e l'IUVH, hanno spiegato che durante gli anni della grosse coalizione, quella guidata da Angela Merkel, sono stati persi in Germania 300.000 posti di lavoro. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, grazie per averci seguiti anche questo sabato, un buon sabato, io vi do appuntamento a domani per la Rassegna Stampa Italiana. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.